Wall Street, I viaggi del lupo. Bene, anche oggi ci siamo, venerdì 21 aprile, questo è Wolf Trips, io sono Domenico Biancardi alla regia e sono pronto a condurvi in un nuovo viaggio nella musica underground. Infatti Wolf Trips indica proprio i viaggi nella musica underground, spaziando dall'elettronica al soul, alla dubstep, insomma spaziamo in vari generi. Oggi abbiamo molte novità da ascoltare e vi annuncio che nelle prossime settimane avremo anche degli ospiti da intervistare. E le novità di oggi sono molto molto belle. Avremo un nuovo brano di Sacre, nuovo brano di Powers, che è una band che abbiamo ascoltato anche settimana scorsa, ma questa settimana ascolteremo un altro disco. Jacob Banks, un artista veramente bravo, e un nuovo brano di Nombe e il nuovo brano di un artista internazionale veramente importante, lui è SNBRN. Ora iniziamo subito con una vecchia conoscenza di Wolf Trips, loro sono i Floor e il brano si chiama Send My Love. Wolf Trips è un viaggio che va sempre in crescendo. Adesso siamo partiti da questo indie elettronico, anche no in realtà, molto tranquillo, e andremo sempre in crescendo con i prossimi brani. Loro erano i Floor con il brano Send My Love. Non è estratto da nessun album ed effettivamente è una cover di un brano di Adele. Ora continuiamo il nostro viaggio con un pezzo nuovo, lui è Sacre e il brano si chiama The Call. All around the world tonight. Dicevamo prima, abbiamo già incrementato un pochettino il ritmo con questo brano di Sacr, all'anagrafe Yashim Shah. Il brano si chiama The Call e lui dice di produrre pop elettronico. Effettivamente con questo brano, con una metrica veramente, la metrica è proprio pop, ritornello, strofa, ritornello, ci ha preso veramente molto. Poi la base sotto mi piace, non è neanche troppo elaborata, un prezzo d'ascolto da fine serata, diciamo. Il prossimo brano invece è molto conosciuto a chi ascolta Wolf Trips. Lui è Thundercat, un artista poliedrico che ho esaltato più volte, e questo brano che andiamo ad ascoltare è Friend Zone, che è stato estratto dal suo album, un nuovo album che è estratto nel 2017, intitolato Drunk. What I'm talking about, 'cause I really don't want. Difficile dare un genere a questo brano. Cercando un po' su internet ho trovato diverse categorizzazioni di questo brano. Viene definito jazz fusion elettronico, ovviamente, perché i suoni elettronici ci sono persistenti, R&B e alternative pop, insomma proprio un mischione, un crossover enorme tra numerosi generi. Lui è Thundercat e all'anagrafe Steve Barner. Continuiamo subito con un pezzo che abbiamo ascoltato già settimana scorsa, ma mi piace veramente molto. Loro sono i Day con You Right. Nigga think you got it like that when I act like that, alright. I'm about to have to backtrack, track on track. You right. Already know what you want, bitch. Why you keep hitting my phone? Mm-hmm. Fuck with a nigga before, just wait till I get in my zone. Mm-hmm. Fuck all the silly talk. Marvin told me never hit it raw. Mm-hmm. Certain shit a nigga pick up on. You cannot trick me, the jig is up. Level up, bitch, like, evidently you don't. No, the boy ain't no chump. Real nigga don't say nothing. I'ma roll up my skunk. Then I burst up like dumb. When your nigga gon' give up? Keep it real, girl, quit fun. When you put it like that, you right. Nigga think you got it like that when I act like that, alright. I'm about to have to backtrack, back on fact. You right. Never ever give a bitch a clue what you really tryna get into. Mm-hmm. Both the friends wanna come with me, telling good things always come in threes. Mm-hmm. Can't let you walk out the door till you show me what that pussy hitting for. Mm-hmm. Not tryna fuck up the vibe, but you got me out by a quarter to five, ho. Say that she feeling my aura, but never been with a nigga from Aurora. Mm-hmm. Think like she El Salvadorian, feels like she working so far. Mm-hmm. Everything going accordingly until she started feeling too important. Mm-hmm. I couldn't do nothing for her. Before shorty left out the door, she said, when you put it like that, you right. Nigga think you got it like that when I act like that, alright. I'm about to have to backtrack on fact. You right, yeah. When you put it like that, you right. Nigga think you got it like that when I act like that, alright. I'm about to have to backtrack on fact. Hanno questo suono che mi ricorda un po' il brano dei 666 Alarma, non so se ricordate. Loro sono un duo composto da Dante Jones e Drew Love. Provengono da Los Angeles e sono in attività dal 2015. Hanno fatto questo nuovo brano, You Right, estratto dall'album New Religion, Iena. Loro sono già più classificabili rispetto all'artista che abbiamo ascoltato prima, Thundercat, perché si sente molto il rap e l'hip hop. Mischiano anche un po' il rock nei loro brani, non è il caso di quello che abbiamo ascoltato. Tra l'altro hanno delle collaborazioni davvero davvero importanti, perché hanno collaborato con artisti come Skrillex. Continuiamo il nostro viaggio e continuiamo a aumentare un pochettino il beat di oggi. E lui è Goldlink con Fall in Love. Don't wanna love. Fall in love. Ooh. money, love, yeah. Love. Girl, you know I'm too legit. Hitting up my mans that I be coolin' with. Hooligan, girl, I told you I ain't one to foolin' with. Not communicating, but I get that from my mama. It's a jungle of gorillas. Why you fuck with anacondas? I'm a Zulu Nation rapper. Get the hammer like your honor. Keep it moving for my partners. Ain't a hoovin' in me, Mikasa. Ain't a hoopin'. She just bouncing at the juices. But I'm Fanta, got the juice. And then I lost it. I put two in my deposit last week. But I made that cat we back sheet. Hey, do not fall in love with the nigga rap sheet. Hey, you know I'm just out here really trying to pass me. Hey, young Cicero, keep that ish nasty. Hey, I don't know about them, but I do love. This right here, it's that group love. Hey, Tom, what happened to love? This is on this shoe, get your new love. Hey. Fall in love, ooh, ooh, fall in love. Wish I never did it. I don't wanna love, love. Fall in love, ooh, ooh, fall in love. Wish I never did it. I don't wanna love, love. E lui è Goldlink, all'anagrafe D'Anthony Carlos, anno 1993, di Washington. Inizia l'attività nel 2013 e questo brano Fall in Love mi piace veramente molto. È un giusto connubio tra l'elettronica e l'hip hop barra rap. Non è uscito in nessun album, questo qua è un singolo suo particolare. E lui lavora con etichette molto interessanti come la RCA, la Soul Election e la Squash Club. E ha fatto anche qualche collaborazione interessante, non con artisti di major, ma con artisti come Rick Rubin o Louis Lastix. Andiamo a ascoltare un po' di pubblicità, dopo rientriamo con il brano di Powers, Ivy. Wolf Trips, i viaggi del lupo. Give you up, it's heavy. Heavy, I want you so bad. dicevo all'inizio, Wolf Trips aumenta sempre un po' il beat. Adesso siamo ancora sull'alternative pop, misto anche un po' di indie, un po' di rock, e un pochettino un po' più ritmato dei primi pezzi, diciamo. Però sono i Powers, è un duo nuovissimo con questa formazione, Mike Del Rio e Chris Tarrou. Loro in realtà sono in attività veramente da molto tempo, perché hanno scritto brani per Christina Aguilera, Kylie Minogue, Kesha, Icona Pop, insomma un po' per tutti. Li ascolteremo molto, abbiamo già ascoltato un brano settimana scorsa e anche questo brano è molto bello. Ora andiamo ad ascoltare Die Jack con il brano che è Supernatural Remix. È un remix perché il brano originale è stato estratto dall'album Hello World, ma è una rivisitazione dell'artista. Let's have a run at sex, I give you a head start. Get it? I got hoes that's gonna send it. Flyer than these pigeons, got more rats than Christmas. Backwards, raw papers, even smoke with shit. Please mind your business. Whip same color as my tenses. You was about as big as a titses. New York City mix fits on that pimp shit. We ain't with shit. Firm like Foxy, whole swag they copy. Zen in the oxy, moving like a zombie. Legend like Harambe, been hot since my space. You ain't talking money, get out of my face. I'm on deck like batters, blunts fatter. When it's spit on whatever, don't matter. Happier when it's Saturday, you just sadder. Walk around ladders with my goons got ladders. Shoot. Your jeans looking clean, they don't need. E lui era Deye Jack del 1996, proveniente dalla Nigeria, in realtà vive ad Atlanta. Diciamo che nel 2014 ha fatto questo album Hello World e ha rifatto nel 2017 questo brano Supernatural con questa versione un pochettino più elettronica. Lui è un artista alternative rap soul. Ora passiamo a un'altra novità per Wolf Trips, lui è Jacob Banks. Nel 2013 ha esordito con l'album Monologue e andiamo ad ascoltare questo brano che in realtà si chiama Chainsmoking, estratto da un singolo. Lui è un artista molto molto bravo. And the bailiff's at the door, and still I'm hanging on to the life we had before. I know this cold in love won't lead me to the Lord. Although I'm black and blue, I'm begging you for more. It's getting harder to breathe. Chain smoking your love can't be good for my sanity, can't be good for my lungs. Chain smoking your love, chain smoking your love, chain smoking your love, chain smoking your love. We watched the water rise and waiting by the shore. Take me floor. You say we're meant to be, but I've seen your Odyssey. I'll be a morning comes. Can't be good for my sanity. Can't be good for my lungs. It's getting harder to be. Say smoking your love. Can't be good for my sanity. Can't be good for my lungs. Say smoking your love. Say smoking your love. Say smoking your love. E lui è Jacob Banks, dicevamo, dal 2013 ha debuttato con l'album Monologue e questo brano qua si chiama Chainsmoking, etichetta Interscope. Ora continuiamo il nostro viaggio con un'altra novità, Nombe, Freak Like Me. My baby's a freak like me, and she knows just what I like. She carries all the keys to the places that no one dares to find. She won't tell nobody what goes on within these walls. If they talk, they probably tell you all about love. Questo brano era Nombe, Freak Like Me. Ora continuiamo il nostro viaggio con una canzone che abbiamo già ascoltato ed è una canzone di AX Squared con il brano Gloss, un brano molto particolare che suona quasi dubstep. come dicevo prima, questo brano suona quasi come un pezzo dubstep alla Flume, potremmo dire. È un brano molto interessante, non troppo pesante, è un bel giro di piano, delle voci quasi accentuate, ma non si sente neanche una linea vocale. Continuiamo il nostro viaggio aumentando sempre un po' il beat, e questa volta tocca a un remix di Joe Mason. Il brano è degli Stalgia BDY. E lui è un remixer di Sydney, ha remixato veramente moltissimi brani. Il suo genere sicuramente è il dubstep. Wolf Death 3. Wolf Trips. I viaggi del... Siamo arrivati al terzo blocco di Wolf Trips. Loro sono i French Horn Rebellion, un duo che fa live con una tromba praticamente e musica elettronica, un mix molto particolare. Loro vengono da Brooklyn e sono in attività dal 2007. Questo brano era dei Pretty Sister Came to Los Angeles. Si definiscono ovviamente funky, come dicono più volte nel brano, e ovviamente elettronici. La lista delle collaborazioni è veramente sterminata, per esempio Yell, MGMT, The Knox, insomma veramente tantissimi. Ora andiamo avanti con un brano che abbiamo ascoltato un po' di tempo fa ed è un remix di Pharaohs, K-Fly FM. I've been doing too much, I've been running too fast, I've been testing my luck. I've been living cloud nine, I've been at it all night, I've been feeling so loved. I've been waking up lit, I've been making up shit, I've been spilling my guts. I've been feeling so blessed, but stressed all day, so I'm living out my dreams like every night. need to chill. I've been getting my fill. I've been spreading that text. I've been spinning my wheels. I've been having my ties. I've been loving bad guys. I've been seeking some thrills. I've been wanting one more than I'm wanting like four. I've been having some guilt. I've been feeling so blessed. Was stressed all day for real. Quello che stiamo ancora ascoltando in sottofondo era il remix di Fareus. Devo dire che non ho trovato molte informazioni su questo remixer. Il brano è Decay Fly FML, un brano molto dolce, poi con questo drum aggiunto dal remixer gli dà una carica leggermente in più. Ora passiamo a un altro remix, loro hanno un nome impronunciabile, si chiamano ARMNMR, e il remix è degli Adventure Club, Bread. Time burns like Patron. It only took one touch. It only takes one. You're the sweet luck in my lungs, straight to my head. Well, I was dumb, but I was stupid for your touch. It only takes. I tried to hit you, quit you, but I can't seem to get through, get through. I can't stop the need to need you. di remixer dal nome veramente impronunciabile. Loro sono Yosef Chung e Yosef Abella, si chiamano così. Sono in attività dal 2016 e hanno remixato questo brano degli Adventure Club, Bread. Il loro genere spazia dall'elettronica alla trap alla dubstep. Ora ci stiamo avviando verso la conclusione del programma. Il prossimo brano è un remix di BK, un remix dei Chainsmoker con il brano Paris. We were staying in Paris to get away from your parents, and I thought, wow, if I could take this in a shot right now, I don't think that we could work this out. Out on the terrace, I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall by yourself? Well, I'm wasted with someone else. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything. They'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything. Let's show them we are better. Let's show them we are better. Let's show them we are better. We're staying in Paris. Let's show them we are better. We're staying in Paris. Let's show them we are better. We're staying in Paris. Get away from your parents, you look so proud. Standing there with a frown and a cigarette, posting pictures of yourself on the internet, out on the terrace. We breathe in the air of this small town, on our own, cutting glass with the thrill of it, getting drunk on the past we were living in. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything. They'll say that I was clever. If we go down, we'll get away with everything. Let's show them we are better. Let's show them we are. Show them we are. Let's show them we are. Show them we are. Let's show them we are better. We're staying in Paris. Let's show them we are better. We're staying in Paris. Let's show them we are better. We're staying in Paris. Dicevamo che il viaggio di Wolf Trips è sempre in crescendo. Siamo partiti infatti da dei beat pop molto tranquilli, adesso ci stiamo muovendo più sulla dubstep, su beat molto più, possiamo dirli, corposi, più accentuati. Lui era BK ed è il remix di questo brano che sicuramente avrete sentito, dei Chainsmoker, Paris. Anche lui, come l'artista di prima, è un remixer che spazia dall'elettronica alla dubstep e alla trap, ed è anche lui di Los Angeles. Abbiamo ascoltato molti artisti questa sera provenienti da Los Angeles. Andiamo ad ascoltare ora l'ultimo brano della serata, ed è un'altra novità per Wolf Trips. Loro sono YesNBRN e Coyote Kiss, e il brano si chiama Show Me. Wolf Trips, I viaggi del lupo. E anche per questa sera siamo arrivati alla fine di Wolf Trips, questa puntata veramente bella, la musica scelta mi piace veramente tanto. E loro, gli ultimi brani, l'ultimo brano che abbiamo ascoltato era un brano degli SNBRN. Ci tenevo a dire che sono un gruppo veramente molto in voga su internet, su SoundCloud, e hanno firmato un contratto con diverse etichette veramente famose come l'Atlantic Records, l'Astralwerk, che è l'etichetta dei Chemical Brothers, la Sony e la Ultra Records. Hanno anche delle collaborazioni importanti con Nate Dogg e altri artisti. Ci riaggiorniamo quindi per venerdì prossimo e una nuova puntata di Wolf Trips, sempre dalle 20 alle 21. Ciao!